Salve a tutti, questa è Radio Big World, io sono Jasmine e benvenuti alla quinta puntata di Curiosità Animate, un programma dove vi parlerò dei classici Disney analizzando il retroscena. Oggi parleremo di Bambi, che è considerato il quinto classico Disney ed è stato distribuito per la prima volta nel 1942. La storia è ispirata all'omonimo romanzo dell'austriaco Felix Salten, pubblicato nel 1923. Come nel romanzo, quindi, il film parla dell'infanzia e della crescita del piccolo cervo. In realtà nel romanzo è un capriolo, però la Disney ha deciso di adattarlo in un cervo bianco. Bambi è un personaggio che si ritrova a crescere in fretta, a causa della crudeltà dell'umanità e soprattutto dei cacciatori, che infatti gli uccideranno la madre quasi subito all'inizio del film. E inoltre, il padre di Bambi è il grande principe della foresta, e quindi il protagonista dovrà essere il suo successore. Quindi, senza madre, Bambi dovrà crescere e fare le sue scoperte senza questa figura genitoriale. E sarà un po' difficile, però in suo aiuto ci sono i suoi migliori amici, ovvero il coniglio Tippete e la moffetta Fiore, che lo aiuteranno a fare queste scoperte, a crescere, quindi a capire le leggi del bosco, a camminare, a parlare e a fare amicizia anche con altri personaggi all'interno del bosco. La storia quindi ha un incipit molto triste, ma prosegue riscattando il protagonista, che fra molte difficoltà riesce a raggiungere un lieto fine. Il design di Bambi è stato affidato a due importanti personaggi all'interno dello studio Disney, ovvero Frank Thomas e Milt Cole, che saranno anche animatori di molti famosi classici Disney che proseguiranno nel corso degli anni. Milt Cole e Frank Thomas hanno quindi deciso di rendere Bambi un personaggio molto ingenuo, ma molto curioso. Centrale è quindi la figura di Tippete, che benché abbia 4 anni più di Bambi, si pone come suo mentore, insieme a Fiore, appunto, la moffetta, e questi due personaggi saranno anche personaggi che sdrammatizzano un po' il carattere molto maturo e molto serio del film. Questa tendenza a creare dei personaggi che sdrammatizzano è una tendenza comune all'interno di tutti i film Disney. L'animazione del film doveva coniugare momenti drammatici, quindi per esempio gli episodi di caccia, la morte della mamma di Bambi e gli episodi successivi, con parti più serene, con appunto Tippete, Fiore e Bambi, creando un contrasto che non stonava, anzi hanno reso il lungometraggio forse uno dei più maturi da parte di Disney al tempo. La colonna sonora, che nel 1943 fece guadagnare al film un Oscar, ha permesso allo stesso modo di creare un certo ritmo fra scene più drammatiche e scene più serene. E quindi la spensieratezza è stata proprio data dalla colonna sonora, che spesso cambiava e rendeva il film con un certo ritmo e quindi anche più complesso da questo punto di vista. Il film, nella sua prima distribuzione, andò discretamente, anche se proprio a causa della Seconda Guerra Mondiale non fece un grandissimo successo. E le critiche sotto questo punto di vista furono anche un po' discordanti. Molti si sono posti negativamente nei confronti di questa critica rispetto alla società, rispetto alla caccia, nei confronti dell'ambiente, eccetera. Però nella seconda edizione, che è del 1947, le critiche negative sono state in gran parte superate e di conseguenza il film ha avuto molto molto più successo. All'inizio era un mezzo deficit economico, ma poi nella seconda edizione è riuscito a sbancare molto di più al botteghino, permettendo anche la distribuzione in Europa. La maturità del film ha reso poco per l'infanzia, ma di riflessione per gli adulti. E quindi tuttora quella generazione che l'ha visto si ricorda degli insegnamenti di Bambi e del trauma che ha vissuto nel vedere la morte della mamma e tutti gli altri episodi più drammatici all'interno del film. E quindi lo ha reso anche uno dei film più maturi da parte dello studio, cioè un vero step in più da parte di Disney. Inoltre anche l'animazione è molto molto dettagliata, quasi realistica, a parte per pochi personaggi che sono Bambi e i suoi amici, e anche gli sfondi sono molto simili a quelli degli acquerelli per le illustrazioni dei libri per bambini dell'epoca vittoriana, quindi è qualcosa di molto molto dettagliato e anche dispendioso a livello economico di animazione. Grazie per avermi ascoltato, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.